Allora, bambini, siete seduti comodi? Ascoltate. Ridi, giochiamoci in strada. Un pallicino vola con la gente che lo ammira. Ora si affaccia e vede il gioco di un bambino che durante il suo cammino chiede, esplora, dopo fa una bella ruota. Poco fa tornava a scuola insieme al suo migliore amico Stromano. Non c'è volta che rientra a casa senza avere il grembiulino sporco. La mamma lo rammenta e il sole passa da una tenda. Il tempo che passa si alterna la radio, la gri- ed una pizza. Certo, il verde di un giardino scongiurava in apparenza la tristezza. Il paese è diventato una monnezza per la Grezza. Che portava dalla Russia fino al porto di Venezia. E tutta Italia il mostro fumo radioattivo. Da allora prese le sue caramelle per trovare la dolcezza che quel mondo gli ha negato da principio. Per restare con qualche amico. Ricorderò, non lo so cosa, ogni frase, ogni attimo. Forse un attico. So che così certamente resteranno insieme a me. Ma perché forse anche con me? Famiglia cazzo, oh, long bridge, it's my babe, ok, oh. Ricordo che eravamo io e te, dispersi in tempi che ricordano le favole. E adesso c'è, vago il ricordo che è me, di quei tempi di cazzeggio, passati a fantasticare. Giornate passate su bici rubate, i giri per strada, mia madre che urlava scappare da scuola, maestra allora ora suona, poi di corsa a giocare. Chi è che sceglie le squadre? Chi è che sceglie le squadre? Io, certo. Questa nuova vita che vivo, anch'io. Altre cose posso fare. Cose. Se ricordo il mio passato, il mio passato con te. Oh, il mio passato con te. Il mio passato con te. Guardiamo chi piscia più in lungo. Io, Masci, piccolo, discolo. Vinco, non posso non farlo. Ho classe innata almeno da quando parlo. Forse anche prima, primo della classe già FIFA. Se voglio lo scavalco, non c'è problema. Copio, sono un copione, la scopiazzo. E se voglio me la scopo. Tua madre, che avevi capito? Pazzo, il mito resta un mito e non conta. Cioè meglio conta, ma non fa la conta. 1, 2, 3, se la... Lo metto, no? Ci sta bene nel testo. Sì. Ehi, yo, bene, siamo arrivati quasi alla fine. Lo sai che mancano almeno un paio di rime. Ragazzo, aspetta, senti. Senti bella intortata questa. Quanta tanta roba si scorda se ci si pensa. Quanta poca roba in corpo ci vuole per fottersela. Ti piace? Ti piace, no? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ricorderò ogni frase, ogni attimo. So che così resteranno insieme a me.